Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi a Destini Incrociati vi raccontiamo la storia di due grandi artisti un po' dimenticati dalla cultura italiana, uno scrittore e un regista, Carlo Emilio Gadda e Pietro Germi, e di come il romanzo del primo, quel pasticciaccio brutto di Via Merulana, si trasformò nel film della rinascita del secondo. E adesso andiamo tutti al mercato. Roma, 1956. È una chiara mattina invernale al mercato di Piazza Vittoria vicino alla stazione di Termini. Un uomo grande e canuto e un ragazzo passeggiano tra le bancarelle, investiti dalle urla di un furtivendolo che incita alla compera e dal fumo delle caldarroste che bruciano nella fornacella. L'uomo è come in trance. Gli occhi balenano da un punto all'altro, registrando ogni dettaglio dello spettacolo vivo e sanguigno che ha davanti. Il ragazzo non lo disturba, sa che sta ripercorrendo con la mente il tragitto che Pompeo, il poliziotto, in arte il biondo, fa nel mercato alla ricerca di un ladruncolo. Ma poi il caldo profumo della porchetta si porta via tutti i pensieri. Gente che vendevano la porchetta sulle bancarelle di piazza di mattina ce n'era una tribù. Da San Giuseppe in poi è la stagione sua, se può dire. Col timo e con i fiocchetti di rosmarino, con l'aglio non ne parliamo, e il contorno e il ripieno di patate con l'erbetta pesta. Ma biondo, capo a ciondoloni, si lasciò condurre tra i berci e le arance rosse dal suo dinoccolato ottimismo, sufolando in sordina o atteggiandovi appena appena le labbra, tacendo a un tratto, levando a un occhio in qua e in là, come a caso. L'uomo anziano prosegue tra batterie di polli e piramidi di arance, e il ragazzo lo segue attento, senza disturbare il tumultuoso lavorare del suo cervello. Il ragazzo si chiama Pietro Citati, e nel 1956 è solo un giovane critico che ha avuto una grande opportunità: conoscere e simpatizzare con un vero scrittore, uno poco noto al pubblico, ma che nell'ambiente letterario è considerato un maestro. Carlo Emilio Gadda. Carlo Emilio Gadda. Io avevo 26 anni e lui 62. Non era affatto timido, come diceva la leggenda. O forse lo era coi grandi, coi noiosi, coi seccatori, coi facitori di frasi fatte. Non con le persone che provavano affetto e simpatia per lui. Così scrive Citati anni dopo quella bella amicizia. Lui e Gadda fanno lunghe chiacchierate su ciò che leggono e amano. Passeggiano per la città per mantenere un minimo rapporto con il mondo e soprattutto per farsi ispirare. Citati sa che Gadda sta lavorando su un romanzo iniziato 10 anni prima e non ancora compiuto. Un'attesa che ha sfinito l'interesse di tutti gli editori italiani e che ha fatto incaponire il più testardo e geniale di loro, Livio Garzanti. Lui è l'unico ad avere capito che sarà un successo, nonostante il titolo chilometrico, quel pasticciaccio brutto de Via Merulana. Una folata di zolfo e un urlo di donna. In quel momento Gadda si risveglia dal suo torpore come se niente fosse e sorride. Citati sa che il maestro ha finalmente trovato quello che cercava in un odore o in qualche brandello di frase sbiascicata da un venditore ambulante. Malgrado la ripugnanza verso la realtà, sentiva un'attrazione profondissima verso le cose. Ne aveva una conoscenza ugualmente profonda, sia delle superfici, sia delle leggi della materia, premeditate o suggerite da Dio. We flood the hall and hang from every curtain, and though appalled we'll never know for certain, they hand out slips to mark the great occasion, our ribs and lips don't get the invitation. We worked and worked our lives away, and Madame said we'd know why one day. Nel tepore della serata, appena scesa come una tenda di velluto alla finestra del suo studio, Gadda scrive alcuni appunti su un quaderno senza badare ai richiami che la Giuseppina, la sua vecchia e fidata governante, gli urla dalla cucina. La zuppa si sta già freddando, ma lui non sente nemmeno l'odore dei porri e delle cipolle affogate nel brodo. No, con la mente Gadda è ancora una volta al mercato e sta registrando tutto ciò che ha visto e sentito. Urla, inflessioni mai sentite, parole nuove che formeranno quel plurilinguismo che sta cercando di creare con tutta la forza che gli rimane. Dotto, la zuppa si sta a freddà! Tutti ormai lo chiamavano Don Ciccio. Era il dottor Francesco Ingravallo, comandato alla mobile, uno dei più giovani e non si sa perché invidiati funzionari della sezione investigativa, ubiquo ai casi, onnipresente sugli affari tenebrosi. Il romanzo si svolge nella Roma fascista del 1927. Il commissario Ingravallo è un poliziotto ligio al dovere, ma per niente contento di alzare il braccio all'immagine del duce. Lui è serio e un po' filosofo, e per questo capace di inaspettata tenerezza. Come per la bella Liliana, donna ricca e infelice, che viene trovata uccisa nel suo elegante appartamento in via Merulana 219, in un palazzo così sicuro e signorile da essere soprannominato il Palazzo dell'Oro. Durante le intricate indagini, Ingravallo scoprirà molti degli altarini dei condomini, ma chi di loro ha ucciso la povera Liliana? E poi, è davvero così importante? Gadda è un amante di libri gialli, ma il suo non è un poliziesco come gli altri. Più che seguire le indagini della polizia, il pasticciaccio crea un vorticoso groviglio di situazioni, personaggi e battute che avvolgono Ingravallo quanto i ricci folti e crespi che porta in testa. Personaggi che fanno parte del popolo vero e sanguigno, battute che rielaborano brandelli di vari dialetti tentando di costruire una nuova lingua. Se avessi fiato, cioè gioventù e denaro, vorrei viaggiare tutta l'Italia, impadronirmi dei dialetti e farne un pasticcione. Scrive Gadda al critico e amico Gianfranco Contini, esprimendo un suo vecchio sogno, quello di rielaborare uno dei suoi romanzi più amati, Guerra e Pace, e continua: vorrei fare un pasticcione con interlocutori nei vari dialetti. Un settetto di voci con veneto, bolognese, bresciano, romano, fiorentino, napoletano, eccetera, eccetera. Un Guerra e Pace col principe Bolkonski che parla milanese. Nikolienka, bolognese, donne fiorentine, eccetera, eccetera. Una spinta verso questa strada gli è venuta durante la Prima Guerra Mondiale. Quando arruolato negli Alpini, il borghese Gadda ha conosciuto molti ragazzi di ceti e provenienze diverse dalla sua. La notte, tra le gole dell'Adamello, al rientro dalla trincea, quel ricettacolo di voci e inflessioni di tutta Italia creano un groviglio di sensi e significati che sono fatalmente più veri della parola scritta, del linguaggio codificato al quale era stato abituato dalle sue eruditissime letture. Sono nato a Milano da padre lombardo, Francesco Ippolito, e da madre lombarda. La madre di mia madre era lombarda, ma suo padre era austriaco. Questo credo abbia influito sulla mia formazione fisiologica. Penso all'impianto etnico, al sangue. Il sangue che ribolle, quando come ogni pomeriggio avventurandosi nella biblioteca di famiglia, il piccolo Carlo può scegliere tra i libri di Balzac, Cervantes, Platone. Deve farlo quasi di nascosto dai genitori che lo vorrebbero meno sognatore, ma lui non può resistere e afferra per l'ennesima volta il suo libro preferito, I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, di cui conosce a memoria interi brani e tutte le illustrazioni. Quando apre il grosso volume, la rilegatura schiocca come un proiettile e le dita affondano nella vergatura della carta e nei volti di Renzo e Lucia, delicati e morbidi come li aveva visti Gustave Doré. Carlo cresce così, a Milano, in via Manzoni, passeggiata elegante della borghesia della Belle Époque, che non si accorge dei lampi di guerra che si accendono nel cielo sempre più scuro. Carlo legge avidamente, spronato dal fratello maggiore Enrico a studiare, scrivere e migliorarsi. Il loro è un rapporto sincero e speciale, diverso da quello che hanno con il rigore e il perbenismo dei genitori. Il padre, industriale tessile, è così poco avveduto da investire tutto quello che possiede nella costruzione di una grande villa a Longone al Segrino, in Brianza. Inutile dire che i soldi finiscono subito, costringendo la moglie Adele e i figli a una vita di sacrifici e di isolamento dagli ambienti borghesi, una volta così familiari. Una situazione che pesa moltissimo sull'equilibrio del giovane Carlo e sul suo rapporto con i compagni ricchi del liceo Parini di Milano, che lo ricoprono di fango all'ingresso di scuola e lo deridono perché ha solo un pezzo di pane raffermo per pranzo e lo mangia con coltello e forchetta come fosse una bella bistecca. La morte in guerra del fratello Enrico, unico riferimento sano della sua vita, fa il resto, convincendolo ad abbandonare ogni velleità artistica e sprofondandolo in una depressione che lo accompagnerà per tutta la vita e che lui stesso descriverà come il mio male oscuro. How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way. But little they know that it's so hard to find One rich man in ten. Dopo che la madre si spegne, poco prima della Seconda Guerra Mondiale, Gadda abbandona Milano per Firenze. La città è un crocevia di culture e influssi stranieri. E anche se i soldi sono pochissimi e può permettersi giusto un paio di uova al giorno, può frequentare molti artisti e scrittori. Gli piace andare a bere un bicchiere al bar delle Giubbe Rosse, dove può sedersi al tavolino in attesa che gli amici Tommaso Landolfi ed Eugenio Montale passino a fargli compagnia. Parlano di poesia e di politica senza accorgersi che il sole è già sparito dai tetti del Ponte Vecchio. E con esso un altro giorno di esilio da un mondo, quello fascista, che cerca di zittirli a tutti i costi. È il 1947, quando quel pasticciaccio brutto esce a puntate sulla rivista Letteratura e nessuno se ne accorge. I sogni di gloria come scrittore sfumano nella morsa della fame e della miseria, ma Gadda continua a scrivere con i suoi tempi, lunghissimi, meditativi. Sono il remorante, colui che tarda a far tutto, a leggere, scrivere, ad andare e venire. Le mie more stanno superando ogni concepibile di lei. Pochi mesi dopo, inaspettatamente, riceve una telefonata da un editore. Ha letto il romanzo ed è interessato a pubblicarlo, non senza qualche decisivo cambiamento. Lo stile è troppo complesso, il fraseggio quasi ostico e poi, parliamoci chiaro, ma un giallo senza la scoperta finale dell'assassino. Che giallo è? Il romanzo è letteralmente concluso. Il poliziotto capisce chi è l'assassino e questo per me basta. Gli argomenti dell'editore però sono molto persuasivi e i soldi che gli vengono offerti per correggerlo e rieditarlo darebbero finalmente un po' di ossigeno alle sue finanze. Gadda così accetta, ma qui comincia il difficile. Per un lavoro così ci vuole tempo e trascorsi i mesi e gli anni con la velocità di un soffio, tutti gli editori interessati, Mondadori e Longanesi in testa, perdono la pazienza. Tutti tranne uno, Livio Garzanti. Ecco come lo ricorda Pietro Citati. Garzanti fu l'unico editore che sia mai riuscito nell'impossibile impresa di costringere Gadda a scrivere un libro. Lo fece con un'intelligenza, uno slancio, un fervore che oggi hanno qualcosa di unico. Dopo un calvario di riscritture, ritardi e ripensamenti, il romanzo esce nel luglio 1957 con un sollievo che ha del miracoloso. Però, 10 anni di lavoro e poi lo fanno uscire in piena estate. Ecco cosa scrive Livio Garzanti in una lettera a Gadda. Mi pare che nessuno di noi si sia reso conto dell'importanza del suo libro. Forse ci vorranno anni. Io mi sento commosso e quasi impacciato a esserne l'editore. Il romanzo vende migliaia di copie e tutti scoprono chi è questo Gadda, questo anziano signore pingue di stomaco e di ingegno che fino a quel momento era materia di pochi, felici eletti. Lo scopre anche Giuseppe Amato, un produttore cinematografico noto per il fiuto geniale e un debole per le sue attrici. Vorrebbe realizzare un film, ma è combattuto, sa cosa vuole il pubblico, sa che il fatto di non dare un nome all'assassino è un difetto. Ma ci vorrebbe un regista che sappia il fatto suo, uno capace di trasformare quella materia sfuggente in puro cinema. Meglio chiamare Pietro Germi, può pagarlo anche poco. Il suo ultimo film, il discusso L'uomo di paglia, non è andato molto bene. Germi ha già diretto splendidi drammi come Il ferroviere, ma è anche un grande appassionato di noir e si vanta di poter scoprire l'assassino dalle prime pagine di un libro giallo. Quando Amato gli spedisce quello di Gadda, va nell'osteria sotto casa, aspira avidamente dal sigaro e comincia a leggere. Lo fa velocemente, inebriato dal turbinio di colori e situazioni che presto gli fanno dimenticare che quello avrebbe dovuto essere un semplice giallo. Cos'è quella curiosità che gli sale dentro, che non è semplicemente quella per il nome dell'assassino? Quando il suo assistente, Alfredo Giannetti, lo raggiunge in osteria, Germi lo aggredisce eccitatissimo. Sono arrivato a metà del romanzo. È pieno di paroloni difficili e non ho ancora capito chi è l'assassino. È la prima volta che mi capita. La storia di Carlo Emilio Gadda e Pietro Germi e di come un romanzo intraducibile è diventato un grande film continua tra poco. A destini incrociati. Time after time I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky. Gadda è un artista solitario e raffinato, sideralmente lontano dal mondo del cinema romano, svelto e furbo, incarnato dal produttore Giuseppe Amato, che vorrebbe realizzare un film dal romanzo con la regia di un altro soggetto difficile, Pietro Germi. Non sarà un'impresa facile. Il mio gran male è stato sempre e sarà sempre uno, quello di desiderare e sognare, invece di volere e fare. Impreparato a tanto e inaspettato successo, Gadda sprofonda in uno dei suoi frequenti e dolorosi periodi di depressione. Certo, non aiuta la freddezza con cui la critica ufficiale accoglie il romanzo. Il famoso scrittore Mario Missiroli, all'epoca direttore del Corriere della Sera, impedisce a Emilio Cecchi, il critico letterario in carica, di dedicare un'ampia recensione al romanzo, giudicandolo irrilevante e senza respiro. Cecchi risponde consegnando a Gadda il premio degli editori, da lui creato apposta per lo scrittore. Ma intanto la macchina del cinema avanza come un carro armato nella tremula vita del vecchio Gadda. Germi non finisce di leggere il romanzo, non lo capisce. Troppi paroloni, digressioni intellettuali. Quello che gli interessa è il linguaggio sanguigno e vibrante e i meravigliosi personaggi che si muovono nel condominio del delitto come nel teatrino della vita. Accettare di realizzare il film è una bella sfida. Una sfida che comincia dalla stesura della sceneggiatura. No, così non va! Capita spesso che mentre lui e i suoi autori Giannetti e De Concini lavorino alla sceneggiatura, non riuscendo a trovare ciò che vuole, Germi prenda una penna e cominci a scrivere di suo pugno. Spesso sono le battute migliori. Quando prende una decisione, Germi diventa un muro, una porta impenetrabile che nasconde il vero se stesso, come ricorda il grande Mario Monicelli in un'intervista del 2009. Era una persona molto difficile, di grande qualità, ma difficile da prendere. Aveva pochissimi amici e io ero uno di quelli. E perfino quei rari amici sanno poco o niente di lui. Sanno solo che ha studiato all'Accademia Nautica San Giorgio di Genova per diventare capitano. E in effetti Germi ha quell'aspetto da marinaio sconfitto, quel ghigno disegnato dal vento salato che spinge alla soggezione. Germi è un burbero senza commedie e senza passato. Per tutti, è nato al suo arrivo a Roma per fare cinema, anzi un po' prima, quando ha scritto una lettera al direttore del centro sperimentale rifiutando la sua bocciatura. Non voglio dire che non mi meriti la bocciatura, ma sono certo che i professori non mi hanno fatto sostenere un esame equo e giusto. È sanguigno, Germi, come un cantastorie da osteria. Ed è uno che si guadagna solo le cose che sa di poter conquistare. E infatti riesce a farsi riammettere al centro sperimentale, nel corso di recitazione. Anche se poi, grazie alla simpatia di un regista influente come Alessandro Blasetti, può frequentare di nascosto le lezioni del corso di regia e distinguersi tra gli altri. Blasetti capisce che Germi è un vero regista, che per carattere e istinto deve avere stretto in mano il timone del comando, come il capitano di marina che non è mai riuscito a diventare. To me, coming from you. Friend is a four-letter word. End is the only part of the word that I heard. Call me morbid or absurd, but to me, coming from you. Quando esordisce alla regia alla fine degli anni 40, Pietro Germi lo fa con film assolutamente inediti per il panorama italiano. Finito l'embargo fascista, le sale cinematografiche vengono invase da decine di noir statunitensi di grande impatto e lui va a vederli tutti. La fiamma del peccato di Billy Wilder, La donna fantasma di Robert Siodmak. E non è forse un segno che questi grandi film siano tutti diretti da registi europei scappati dalla follia delle leggi razziali? Il giallo, l'azione, il sangue scorrono nel nostro DNA. E Germi comincia a sognare un grande poliziesco italiano. Ma i tempi non sono maturi, anche se nel 1949 vince un Nastro d'Argento con il primo film d'argomento mafioso, In nome della legge, che lo consacra autore a soli 36 anni. Ecco ancora Mario Monicelli. Ci vedevamo sempre in un'osteria al centro di Roma e lì bevevamo un po' di vino di Frascati e parlavamo molto di cinema. Litigavamo spesso. Avevamo fatto insieme una società per produrre film e per alcune opinioni discordanti ci siamo persino picchiati. Dal 1949 non era più stato prodotto in Italia un film paragonabile a questo. Giovane e con una carriera in ascesa, Jeremy potrebbe godersi il momento buono, e invece resta fedele a quella cupa solidità, a quel moralismo all'antica che gli permette di orientarsi sulla superficie di un'Italia in piena ricostruzione, ma sempre fatta di altarini, raggiri, meschinità. Non è un film in Technicolor, non è stereofonico, non è cinemascope, e tuttavia Il Ferroviere, diretto e interpretato da Pietro Jeremy, sarà un avvenimento memorabile per ciascuno di voi spettatori. Sarete sconvolti da una rappresentazione così commossa della vita quale rare volte il cinema di ogni tempo aveva saputo offrire. Continua a fare film per il grande pubblico, che impara a conoscerlo anche come attore di grande intensità grazie a Il Ferroviere e L'Uomo di Paglia. Ma proprio da qui la critica comincia ad attaccarlo, come ricorda lo sceneggiatore di molti suoi film, Luciano Vincenzoni. Jeremy era un grandissimo artigiano, ma aveva un difetto: non era comunista. Jeremy, che da antifascista convinto, ma in controtendenza al mondo artistico dell'epoca, si è iscritto nelle fila del Partito Socialdemocratico, racconta le storie di una classe operaia sedotta dai nuovi valori borghesi, sfidando così il classico stereotipo comunista e attirandosi le ire del critico Umberto Barbaro in un celebre articolo del 1957. A me, questi operai di Jeremy, che si comportano senza intelligenza e senza volontà, senza coscienza di classe e senza solidarietà umana, metodici, abitudinari come piccoli borghesi, questi operai di celluloide che, se fossero di carne ed ossa, voterebbero per i socialdemocratici e ne approverebbero le alleanze fino all'estrema destra, non solo sembrano caricature calunniose, ma mi urtano maledettamente i nervi. L'invettiva di Barbaro, per quanto esagerata possa sembrare, è lo specchio del pensiero comunista dell'epoca, fortemente destabilizzato dopo la sanguinosa repressione sovietica in Ungheria del 1956. Appare inappropriato, quindi, che Jeremy suggerisca l'evoluzione della classe operaia verso un'ideologia più borghese. Di tutt'altro tenore la lettera che il giornalista e futuro uomo politico Antonello Trombadori scrisse all'allora segretario del Partito Comunista Palmiro Togliatti, capendo l'importanza dell'intuizione del regista. Veniamo proprio in questi giorni dall'aver visto un film italiano assai bello e commovente, certamente popolare, Il Ferroviere di Pietro Jeremy. È un'opera di un socialdemocratico militante, eppure è un film pervaso da ogni parte di sincero spirito socialista. Pietro Jeremy è un uomo cupo, aspro, allucinato come la natura della sua Liguria. È un uomo all'antica che mangia in osteria e non ha nemmeno il telefono, e che quando Oriana Fallaci gli chiederà un'intervista per Epoca, dopo averla seminata per molti giorni, le risponderà: chi è? Che cosa vuole? Chiudendola fuori di casa. Jeremy è uno che pensa con la sua testa, che non ha paura di condannare i comportamenti ipocriti degli italiani utilizzando i mezzi del cinema popolare. È un uomo indipendente e pericoloso. E allora perché decide di realizzare quel pasticciaccio brutto di Via Merulana, che sulla carta tutto sembra fuorché un film politico e sociale? Quando iniziano le riprese nel 1959, Jeremy è eccitatissimo. Ha dalla sua la vasta eco suscitata dal romanzo, una sceneggiatura di ferro che trasporta l'azione dal 1927 ai più noir anni 50 e che ha finalmente un assassino vero e proprio. E il film ha anche una compagnia di attori straordinari, tra cui Jeremy stesso, che presta il suo volto indurito dalla salsedine all'integerrimo commissario in gravallo e la 19enne Claudia Cardinale, appena arrivata in Italia e scelta contro il parere di tutti, proprio perché è ombrosa e taciturna come lui. Jeremy ha 45 anni, ma è eccitato come non era mai stato. Sta coronando il suo sogno, realizzare il primo vero poliziesco italiano. Non gli interessa cosa ne pensa lui, Gadda, il grande scrittore, e non gli interessano le note che ha scritto al lato della sceneggiatura quando ha preteso di leggerla. Se fosse per lui, un film non si dovrebbe mai basare su un romanzo. E in effetti anche questa volta del libro è rimasta l'ossatura e poco più. Dottore, Gadda è arrivato sul set. Non chiamarmi dottore, non sono dottore. Come il commissario in gravallo, Jeremy odia i proselitismi e l'adulazione gratuita. Non è dottore, non si è mai laureato e non vuole che lo chiamino così. Pensa mentre si nasconde in un angolo del set, tormentando il suo sigaro coi denti. Non ha voglia di vedere Gad, ha sempre qualche intuizione estemporanea, qualche genialità del momento che a lui proprio non vanno giù. Ricordo che Gad, un uomo timidissimo, simpaticissimo, straordinario, aveva una gran soggezione di Jeremy, e Jeremy aveva una gran soggezione di lui. Ricorda l'assistente e amico di Jeremy, Alfredo Giannetti, e continua. Gad veniva, vedeva delle scene e a un certo punto diceva: «Senta, Giannetti, che nome avete dato a quel personaggio? Adesso non mi ricordo che nome era. E lui, ah, ma non si potrebbe cambiare, non so, in Carpedoni? Lui aveva questa cosa di fare sempre delle associazioni con gli animali. Perché sembra una carpa, Carpedoni. E io, sì, sì, dopo glielo dico a Jeremy, sì, sì, in doppiaggio si può cambiare. E dopo andavo da Jeremy alla sera, lo sai che ha detto Gadda? Cosa ha detto? Se potevamo cambiare il nome del personaggio in Carpedoni. E perché? Perché dice che assomiglia a una carpa. Andassero a fare in culo questi intellettuali cretini. È il 1959. Il regista Pietro Germi, outsider del cinema italiano, sta girando un film tratto dal bestseller del momento, Quel pasticciaccio brutto de Via Merulana. Per lui è un sogno che diventa realtà, realizzare il primo poliziesco italiano. Ma per farlo deve sacrificare buona parte dell'intraducibile romanzo di Carlo Emilio Gadda, a cominciare dal finale. Tra i due non corre buon sangue, eppure c'è un sotterraneo rispetto, un'ammirazione profonda che sembra basarsi proprio sul tradimento della materia originale. E dire che il mio compenso per il film è 1000 miglia lontano dai 30 milioni per Mammella, de Cerné alle poppe della Lollobrigida o alla bocca della Loren. A 66 anni, Gadda conosce per la prima volta le lusinghe del successo e insieme il piacere di potersi lamentare per il suo cachet, come scrive in una lettera alla nipote Anita Fornasini. In realtà, lo scrittore, travolto da un'eccessiva sovraesposizione mediatica, finisce per chiudersi nella sua solita paura, come racconta il critico e grande esperto dell'opera di Germi, Mario Sesti. Gadda, che in fatto di nevrosi era in grado di competere con Germi e dargli dei punti, ad un certo punto credeva che Germi volesse ucciderlo. Gadda continua a presentarsi sul set del film senza essere stato invitato e senza mai rivolgersi direttamente al regista, chiede spiegazioni e suggerisce cambiamenti dell'ultimo minuto. Germi spesso corre a nascondersi in un'altra stanza spegnendo perfino il suo amato sigaro, pur di non farsi trovare. Eppure alla fine, come dimostrerà al montaggio del film, sposerà molte delle interferenze del vecchio scrittore. Non è vero. E cosa non è vero? Niente è vero. Vi state inventando tutto voi. Io gli volevo bene, la signora mia, come una sorella. Ah, certo, certo. Tu non volevi che morisse, no? Ma è andata male. Lei è tornata troppo presto e lui l'ha ammazzata. No! Non è stato, Diomede! Mi volete fare di quello che non è vero, ma non ci potete riuscire mai! In realtà, Germi e Gadda sono molto più simili di quanto pensino. Sono entrambi inaccessibili, patologicamente timidi e riservati, insofferenti alle promesse del boom economico e alla miopia degli intellettuali. Germi e Gadda sono disgustati dal mondo che li circonda e che pure li affascina. E sono d'accordo su un punto. La realtà non esiste. È un insieme di fatti comici e drammatici, un groviglio inestricabile il cui unico finale possibile è il dolore dell'individuo. Poco importa se il film di Germi cambia titolo e diventa Un maledetto imbroglio e se alla fine l'assassino ha un volto e un nome. Rispondi, perché? Scappa! Fermo, Diomede! Fermo! Diomede! Fermatevi! Diomede! Diomede! Quando Un maledetto imbroglio esce nel 1959, è subito un grande successo. Viene riconosciuto come il primo vero poliziesco italiano e insieme rilancia su vette ancora più alte le carriere di Gadda e Germi. È emblematico che alla consegna dei nastri d'argento Germi vinca il premio come miglior soggetto originale. Un maledetto imbroglio è una storia originale. Germi ha usato Gadda, ha trasformato la sua ricca prosa in una detective story classica, ma è arrivato comunque al cuore dell'ossessione che condivideva con lo scrittore. Dire chiaramente al pubblico che il paese stava cambiando troppo velocemente e in modo pericoloso. Oggi, in piena crisi, sappiamo che Germi aveva visto giusto e che quel gusto per il pastiche di dramma, satira e cronaca nera per cui si fece influenzare da Gadda diventerà il pilastro dei suoi film più maturi, che poi sono cult come Divorzio all'italiana, che vince un Oscar, Signore e signori, Amici miei, che seppur consegnato all'amico Monicelli a causa della malattia che l'avrebbe ucciso nel 1974, rimane un film di Pietro Germi. Ecco cosa ricorda l'amico e sceneggiatore Luciano Vincenzoni. Quando andai a Hollywood per lavorare con il grande Billy Wilder, gli chiesi chi voleva conoscere tra i registi italiani. E lui non mi disse Fellini, non mi disse Antonioni, ma disse «Voglio conoscere Pietro Germi, perché è il regista più vicino a me». Rituffato dal successo del film in un periodo di grande energia creativa, a 67 anni compiuti, Gadda si rimette al lavoro su La cognizione del dolore, un romanzo sconvolgente che si ispira all'inquieto rapporto che ebbe con la madre. Sarà il suo ultimo grande successo di pubblico e una sorta di crudele testamento. È divertente oggi rivedere le poche foto di scena scattate sul set di Un maledetto imbroglio, dove Jeremy, probabilmente ripescato a forza dal produttore da dietro un angolo, posa insieme a Gadda mentre finge di spiegargli come funziona la macchina da presa. Due uomini lontanissimi, eppure uniti da una stima sotterranea e una visione della vita troppo moderna e caustica per i loro tempi. Ancora Mario Sesti. Forse nessun altro autore come Jeremy è stato così attentamente ascoltato dal pubblico dell'Italia contemporanea. E pochi sono stati dimenticati così in fretta. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Altri destini si incroceranno domani alle 15 qui su Radio 24.